cose da pazzi veramente. Ma questo cosa vuole fare? Dico, perché non si sta zitto? Che fa? Si mette a protestare. Ma come vive agiatamente? Tiene la macchina, va al mare e vuole fare l'impegnato e si permette di ballare. Ma che si faccia i fatti suoi e si accontenti di campare, ma di che si va a impicciare, questo si vuole rovinare. Sono cose delicate, non devono essere toccate. Ma che si faccia i caroselli che canti alla televisione e non si vada ad immischiare con la contestazione. Ma questo come si permette di toccare le cose serie, mentre ha fatto fin da bambino il buffone ed il burattino, eh? Ma che si faccia i fatti suoi, che si accontenti di campare, ma di che si va a impicciare, questo si vuole rovinare. Sono cose delicate, non devono essere toccate. Nessuno dice che è vietato se vuole scrivere canzoni, ma che le scriva con prudenza e senza rompere i coglioni. E se ricordi che va bene la libertà delle opinioni, però non deve esagerare. Ma che ci ha preso per menchioni, eh? Ma che se faccia i fatti suoi, che si accontenti di campare, ma di che si va a impicciare, questo si vuole rovinare. Sono cose delicate, non devono essere toccate. In che si limita a cantare quella com'è la fattoria? Che faccia pure, lo ascoltiamo, canta, pazienza, così sia. Ma questo legge, questo pensa, si atteggia a fare il comunista. Che fa? Si mette a parodiare gli intellettuali di sinistra, eh? Ma che si faccia i fatti suoi, che si accontenti di campare, ma di che si va a impicciare, questo se vuole rovinare. Sono cose delicate, non devono essere toccate. Ma che si faccia i fatti suoi, che si accontenti di campare, ma di che si va a impicciare, questo se vuole rovinare. Se diventa riguardoso e continua a sfrupuleare, lo mettiamo un po' a riposo, a pensare e a meditare sulle cose delicate, che non devono essere toccate. Thank you.